dice il cuore. Sì, t'ho cercata un dì, or ti stringo qui, sul cuor così. Se ti sussurro t'amo, tu mi rispondi t'amo, tu che ti chiami amor, con un bacio e un fior, fai felice il cuore. Io cercavo un po' di primavera nel mio cuor, quando m'apparisti tu più bella d'un bel fior, profumo di gioventù, la primavera eri tu. La tua mano piccola pian piano mi sfiorò, la tua bocca tiepida la bocca mia baciò, tremando allor m'hai dato un fior, socchiudendo le tue ciglia felice.